Dopo la visita della signorina Cornelia, Nan Blythe si alzò dall'amaca dove era sdraiata a fare i compiti e scese di corsa nella valle dell'arcobaleno. Gli altri erano già tutti lì. Jem e Jerry giocavano a lanciare vecchi ferri di cavallo, presi in prestito dal fabbro di Glen, e Carl stava osservando delle formiche su un'assolata montagnola di terra. Walter, invece, sdraiato a pancia in giù tra le felci, leggeva ad alta voce a Mary di Faith e Una, un meraviglioso libro di leggende che conteneva i racconti del prete John, dell'ebreo errante, di rabdomanti e di uomini dotati di coda, dello Shamir, il verme che spaccava le rocce e apriva la strada per trovare tesori, delle isole fortunate e delle donne cigno. Walter era rimasto molto colpito nell'apprendere che Guglielmo Tell e il cane Gellert erano solo personaggi mitici, mentre la leggenda del vescovo Attone divorato dai topi lo teneva sveglio di notte. I suoi racconti preferiti, però, erano quelli del pifferaio di Hamelin e del Santo Graal. Li leggeva con trasporto, mentre le campanelle sugli alberi innamorati tintinnavano, scosse dalla brezza estiva e la frescura della sera calava sulla vallata. «Sono bugie proprio interessanti, vero?» disse Mary ammirata quando Walter richiuse il libro. «Non sono bugie», disse Dee indignata. «Non penserai che sia tutto vero?» chiese Mary incredula. «No, non esattamente. Sono come le tue storie dei fantasmi. Neanche quelle erano vere, ma tu non ti aspettavi che ci credessimo, perciò non erano bugie». «Quella faccenda dei rabdomanti comunque non è una bugia», disse Mary. «Il vecchio Jack Crawford dall'altro lato della baia lo sa fare. Lo chiamano sempre quando bisogna scavare un nuovo pozzo. E credo anche di aver conosciuto l'ebreo errante». «Oh, Mary, davvero?» chiese una sbalordita. «Sì, quant'è vero che sono viva!» «Lo scorso autunno dalla signora Wiley ho visto questo tipo vecchissimo. Era così vecchio che poteva davvero essere chiunque. Lei gli ha chiesto se secondo lui i pali di legno di cedro duravano a lungo e lui ha risposto: "Se durano a lungo, durano almeno un migliaio di anni, lo so per certo. Perché li ho provati 2 volte. Quindi quel tipo doveva avere 2000 anni. E chi poteva essere se non l'ebreo errante? Io non credo che l'ebreo errante vorrebbe mai avere a che fare con una come la signora Wiley», disse Faith convinta. «A me piace la storia del pifferaio di Hamelin», disse Dee, «e anche alla mamma. Mi dispiace sempre per il povero bambino che non riesce a tenere il passo e rimane fuori dalla caverna. Chissà che delusione. Deve essersi chiesto per tutta la vita quali meraviglie si era perso e non avrà mai smesso di desiderare di essere entrato insieme agli altri. Però pensa che sollievo per sua madre», disse una sottovoce. «Probabilmente le era sempre dispiaciuto tantissimo che suo figlio fosse zoppo, magari ci piangeva anche. Dopo però non credo le sia più dispiaciuto perché se non fosse stato zoppo lo avrebbe perso per sempre». «Un giorno», disse Walter con occhi sognanti e guardando il cielo all'orizzonte, «un giorno il pifferaio di Hamelin arriverà da dietro quella collina e scenderà nella valle dell'arcobaleno, suonando una musica dolce e allegra, e io lo seguirò fino alla costa e al mare, lontano da tutti. In realtà non vorrò andarci. Jamie invece sì, perché sarà una vera avventura, ma ci andrò lo stesso perché la sua musica mi chiamerà e mi chiamerà e mi chiamerà ancora finché non sarò costretto a seguirla». «Andremo tutti quanti!» esclamò Dee, contagiata dalla fantasia di Walter e quasi convinta di poter vedere la sagoma irridente del magico pifferaio che si allontanava in fondo alla valle. «No, voi rimarrete qui ad aspettare», disse Walter con una strana luce nei suoi grandi e bellissimi occhi. «Aspetterete il nostro ritorno e magari non torneremo più, non potremo farlo finché il pifferaio continuerà a suonare. Magari ci porterà in giro per tutto il mondo e voi ve ne starete qui ad aspettare e aspettare». «Oh, piantala!» disse Mary rabbrividendo. «Non guardarmi così! Walter Blythe mi fa venire i brividi! Vuoi che mi metta a piangere? Già me lo vedo, quell'orribile vecchio pifferaio che se ne va e voi ragazzi che lo seguite, lasciandoci qui ad aspettare tutte sole. Non so come mai mi sento così, non sono una piagnona, ma appena hai cominciato a parlare mi è venuta voglia di piangere». Walter Sorrise trionfante. Gli piaceva esercitare quel potere sui suoi compagni, giocare con le loro sensazioni, risvegliare le loro paure, infiammare i loro animi. In quel modo soddisfaceva l'istinto drammatico che c'era in lui. Ma sotto quella sensazione di trionfo si nascondeva quell'impercettibile brivido di una misteriosa minaccia. Il pifferaio di Hamelin gli era sembrato davvero reale, come se il velo fluttuante che nascondeva il futuro si fosse scostato per un istante nella penombra accesa di stelle della valle dell'arcobaleno, mostrandogli una cupa visione degli anni a venire. L'arrivo di Karl, che veniva a riferire quel che stava accadendo nel reame delle formiche, riportò tutti alla realtà. «Le formiche sono maledettamente interessanti», esclamò Mary, lieta di sfuggire all'ombra scura del pifferaio. Carla e io abbiamo passato tutto il sabato pomeriggio a guardare l'aiuola che c'è nel cimitero. Non pensavo che gli insetti fossero creature così appassionanti. In generale le formiche sono piuttosto litigiose, a volte attaccano briga senza il minimo motivo, o almeno così sembra. Alcune invece sono proprio codarde e si spaventano così tanto che si rannicchiano in una palla e si lasciano picchiare. Non hanno proprio nessuna intenzione di difendersi. Ce ne sono altre che sono pigre e non hanno voglia di lavorare. Abbiamo visto come si defilavano. E poi c'era quella formica morta di dolore perché una sua compagna era stata uccisa. Non lavorava, non mangiava più. Si è proprio lasciata morire, quant'è vero che c'è un domani. Seguì uno sconcertato silenzio. Tutti sapevano che domani non era la parola che Mary aveva avuto in mente. Faith e Dee si scambiarono un'occhiata che non aveva nulla da invidiare a quella della signorina Cornelia, e anche Walter e Carl si guardarono a disagio mentre le labbra di una presero a tremare. Mary si agitò imbarazzata. Mi è scappato prima che potessi pensarci, quant'è vero che, insomma, quant'è vero che sono viva e me lo sono rimangiato in tempo. Certo che vi impressionate facilmente voi altri, se solo aveste sentito cosa si dicevano i Wiley quando litigavano. Le signore non dicono certe cose, disse Faith in tono piuttosto solenne per i suoi standard. Non sta bene, sussurrò una. Ma io non sono una signora, disse Mary, e non credo di poterlo mai diventare, non credete? Ma non lo dirò più se riesco a evitarlo, ve lo prometto. E comunque, disse una, non puoi aspettarti che Dio ascolti le tue preghiere se nomini il suo nome invano, Mary. Oh, ma tanto non mi aspetto che le ascolti comunque, disse Mary di poca fede. È una settimana che gli chiedo di sistemare la faccenda della signora Wiley e lui non fa niente. Penso che lascerò perdere. A quel punto arrivò Nan senza fiato. Mary, ho delle notizie per te. Il signor Elliot è stato dall'altro lato della baia e indovina cosa ha scoperto? La signora Wiley è morta! L'hanno trovata morta nel suo letto la mattina che sei scappata, quindi non dovrai mai più tornarci. Morta? Disse Mary sbalordita. Poi rabbrividì. Credi che c'entrino le mie preghiere? Chiese in tono implorante a una. Se è così, non pregherò mai più in vita mia. Lei potrebbe tornare dai morti per perseguitarmi. Ma no, Mary, disse una per confortarla, non c'entri niente tu. La signora Wiley è morta prima che cominciassi a pregare. È vero, disse lei riprendendosi un po', ma te lo dico, questa storia mi ha fatto venire i brividi. Non mi piace l'idea di aver pregato per la morte di qualcuno. Mentre pregavo non pensavo certo a questo e lei mi è sempre sembrata una di quelle che non muoiono mai. La signora Elliot ha detto qualcosa su di me? Dice che probabilmente dovrai tornare all'orfanotrofio. Come pensavo, disse Mary tetra. E loro mi affideranno a qualcun altro come la signora Wiley. Beh, penso di potercela fare. Sono forte io. Io pregherò che non te ne debba andare, le sussurrò una mentre tornavano alla canonica. Fa come vuoi, disse Mary risoluta. Io non lo farò. Questa faccenda della preghiera mi ha proprio spaventata. Guarda un po' cos'è successo. Se la signora Wiley fosse morta dopo che avevo cominciato a pregare, sarebbe stata colpa mia. Ma no, non è così, disse una. Vorrei riuscire a spiegarti. Papà potrebbe, sai Mary, potresti parlarne con lui. Certo, come no? Proprio non so cosa devo fare con tuo padre, davvero. Mi passa davanti in pieno giorno e neanche mi vede. Non sono una persona orgogliosa, ma non sono neanche uno zerbino, insomma. Oh Mary, Papà è fatto così, non vede neanche noi per la maggior parte del tempo. È sempre immerso nei suoi pensieri, tutto qua. Comunque, io pregherò che tu possa restare a Four Winds, perché mi stai simpatica, Mary. Va bene, però se qualcun altro muore per questo motivo, non voglio saperne niente, eh? Disse Mary. Mi piacerebbe restare a Four Winds. Mi piacciono la baia, il faro e voi e i Blythe. Siete gli unici amici che abbia mai avuto e detesto dovervi lasciare. Ci pensa una. La signorina Cornelia andò quindi a parlare con il signor Meredith, lasciando il povero gentiluomo distratto piuttosto sbalordito. Gli sottolineò senza troppe premure la sua negligenza nel permettere a una trovatella come Mary Vance di venire a stare a casa sua e di frequentare i suoi bambini senza sapere nulla di lei e senza nemmeno tentare di informarsi. Il danno non è grave, certo, concluse. Questa Mary, in fin dei conti, non è una cattiva ragazza. I suoi figli e i ragazzi Blythe me ne hanno parlato e da quel che ho capito non ha poi tutti questi difetti. È solo un po' volgare. E non ha un vocabolario appropriato, ma pensi cosa poteva succedere se fosse stato uno di quegli orfani di cui conosciamo bene le malefatte? Se la ricorda anche lei, quella povera creatura che venne a stare a casa di Jim Flagg e le cose che insegnò ai suoi figli? E il signor Meredith, in effetti, ricordava quella storia e rimase genuinamente sconcertato dalla propria noncuranza. Ma cosa possiamo fare, signora Elliot? Chiese impotente. Non possiamo mica mettere alla porta quella povera bambina. Qualcuno deve prendersi cura di lei. Certamente, la cosa migliore è scrivere subito una lettera all'orfanatrofio di Hope Town. Immagino che nel frattempo potrà restare qui qualche altro giorno, in attesa che rispondano. Ma lei tenga occhi e orecchie ben aperti, signor Meredith. Susan sarebbe morta stecchita per l'orrore se avesse sentito la signorina Cornelia ammonire a quel modo un pastore. Lei invece se ne andò soddisfatta di aver fatto il suo dovere e quella sera il signor Meredith chiese a Mary di andare nel suo studio. Lei obbedì, pallida come un cencio per la paura, e sperimentò una delle sorprese più grandi della sua povera, tormentata vita. Quell'uomo a cui fino a quel momento aveva guardato con meraviglia e timore era l'animo più gentile che le fosse mai capitato di incontrare. Senza nemmeno sapere come, si ritrovò a confidargli tutte le sue preoccupazioni, ricevendo in cambio una compassione, una comprensione tale che nemmeno immaginava potessero esistere. Mary uscì dallo studio con il volto e gli occhi così addolciti che una stentò a riconoscerla. Tuo padre è un tipo a posto quando si sveglia, disse con un singulto che era quasi un singhiozzo. Peccato che non lo faccia più spesso. Mi ha detto che non è stata colpa mia se la signora Wiley è morta, ma che devo provare a pensare ai suoi lati positivi e non a quelli negativi. Non ho proprio idea di quali fossero i suoi lati positivi. E forse il fatto che teneva la casa sempre in ordine e che faceva del burro buonissimo? Ricordo bene che mi sono quasi cadute le braccia a strofinare quel vecchio pavimento di legno della cucina, tutto nodoso. Ma dopo oggi tutto quello che dice tuo padre per me va bene. Nei giorni seguenti, tuttavia, Mary non fu molto di compagnia. Aveva confidato a una che più pensava all'idea di tornare all'orfanatrofio, più lo detestava. Una si lambiccò il cervello alla ricerca di un modo per evitarlo, ma alla fine fu Nan Blythe a giungere in soccorso con un'idea assolutamente sorprendente. Mary potrebbe andare a stare dalla signora Elliot. Ha una casa molto grande e il signor Elliot dice sempre che avrebbe bisogno di una mano. Sarebbe un posto fantastico per Mary. Certo dovrebbe comportarsi bene. Oh, Nan, credi che la signora Elliot lo farebbe? Non c'è niente di male a chiederglielo. Disse Nan. All'inizio una non credeva di esserne in grado, era così timida che chiedere un favore a qualcuno era un vero tormento per lei. E la signora Elliot, così vivace ed energica, la intimidiva, le stava molto simpatica e le piaceva sempre molto andare a farle visita, ma chiederle di punto in bianco di adottare Mary Vance le pareva un atto di tale presunzione da far orrore al suo spirito timido. La sera in cui il signor Meredith ricevette la lettera dell'orfanatrofio di Hope Town, in cui gli chiedevano di rimandare indietro Mary il prima possibile, lei pianse fino ad addormentarsi nella soffitta della canonica. A quel punto una trovò il coraggio della disperazione e la sera del giorno dopo uscì di casa e si avviò lungo la strada del porto. Dalla valle dell'arcobaleno giungevano risate allegre, ma non era lì che lei era diretta. Era terribilmente pallida e terribilmente seria, al punto da non notare neanche la gente che incontrava. La vecchia signora Flagg, Moderatamente offesa, dichiarò che una Meredith sarebbe diventata distratta come suo padre. La signorina Cornelia, ovvero la signora Elliot, viveva a metà tra Glen e Four Winds Point, in una casa che dall'originale verde acceso era passata a un più tenue e gradevole grigio-verde. Marshall Elliot ci aveva piantato tutto intorno degli alberi e c'erano anche un roseto e una siepe di abeti. Quel posto era molto cambiato rispetto a come era stato anni prima, e sia i bambini della canonica sia quelli di Ingleside piaceva andarci perché la passeggiata sulla vecchia strada del porto era bellissima e alla fine c'era sempre un barattolo ben fornito di biscotti ad attenderli. In basso, le onde torbide del mare lambivano dolcemente la sabbia e tre grandi imbarcazioni stavano uscendo dal porto simili a grandi e bianchi uccelli marini. Una goletta, nel frattempo, risaliva il canale e il piccolo mondo di Four Winds era avvolto in colori scintillanti, musica leggiadra e in uno strano fascino come se tutti dovessero essere felici lì. Ma quando una svoltò per oltrepassare il cancello di casa della signorina Cornelia, le sue gambe quasi si rifiutarono di obbedirle. La signorina Cornelia era da sola in veranda. Una aveva sperato che ci fosse anche il signor Elliot. Lui era così grosso e cordiale e giocherellone che sarebbe stata una presenza incoraggiante. Una si sedette sullo sgabellino che la signorina Cornelia le aveva portato e tentò di mangiare la ciambella che le era stata offerta. Le si incastrò in gola, ma riuscì a mandarla giù e a evitare che la signorina Cornelia si offendesse. Era incapace di aprire bocca ed era sempre pallidissima. Nei suoi grandi occhi blu c'era uno sguardo così pietoso da lasciar supporre alla signorina Cornelia che la bambina fosse finita in qualche pasticcio. «Cosa ti turba, cara?» le chiese. «C'è qualcosa, è evidente!» Una ingoiò l'ultimo pezzetto di ciambella con un singulto disperato. «Signora Elliot, le andrebbe di prendere in casa Mary Vance?» disse con voce implorante. La signorina Cornelia la fissò sbalordita. Io? Prendere in casa Mary Vance? Per tenerla, intendi? Sì, per tenerla, adottarla, disse una infervorandosi e acquistando coraggio ora che il ghiaccio era rotto. Oh, signora Elliot, per favore, Mary non vuole tornare all'orfanotrofio, ci piange tutte le notti e ha paura che la spediscano in qualche altro brutto posto. È così intelligente, non c'è nulla che non sappia fare, sono sicura che se la prendesse non se ne pentirebbe. Non ci avevo mai pensato, disse la signorina Cornelia piuttosto sconcertata. Oh, ma ci penserà adesso? La implorò una. Ma tesoro, non mi serve un aiuto. Sono perfettamente in grado di sbrigare tutte le faccende da sola. E se anche avessi bisogno di aiuto, non mi è mai piaciuta molto l'idea di avere una ragazza in casa. La luce scomparve dagli occhi di una e le sue labbra presero a tremare. Tornò a sedersi sullo sgabello. Una figuretta patetica e profondamente delusa e scoppiò a piangere. Oh no, no, tesoro, no! Esclamò imbarazzata la signorina Cornelia. Non sopportava di aver ferito i sentimenti di una bambina. Non ho detto che non la prenderò, ma è un'idea così inaspettata che mi ha colta di sorpresa. Devo pensarci. Oh, ma Mary è così intelligente! Ripeté una. Sì, l'ho sentito dire. E ho sentito dire anche che impreca, è vero? Non l'ho mai sentita imprecare veramente, balbettò una a disagio, ma temo che potrebbe. Oh, ci credo. E dice sempre la verità? Credo di sì, tranne quando ha paura di essere picchiata. E tu vuoi comunque che io la prenda? Oh, qualcuno deve farlo, singhiozzò una. Qualcuno deve prendersi cura di lei, signora Elliot. Questo è vero. Forse è effettivamente mio dovere farlo, disse la signorina Cornelia con un sospiro. Beh, devo prima parlarne con il signor Elliot, perciò per il momento non dire niente e prendi un'altra ciambella, cara. Una la prese e la mangiò con ben maggiore appetito. Le ciambelle mi piacciono molto, confessò. La zia Marta non le fa mai. A Ingleside la signorina Susan invece le fa e a volte ce le lascia portare nella valle dell'arcobaleno. Sa cosa faccio quando ho voglia di ciambelle, ma non posso averle, signora Elliot? No, cara, cosa? Tiro fuori il vecchio libro di cucina della mamma e leggo la ricetta delle ciambelle e anche di altre cose. Sembrano così buone. Lo faccio sempre quando ho fame, specialmente quando a cena c'è il solito. In quel caso leggo le ricette del pollo fritto e dell'oca arrosto. Mamma sapeva fare tutte quelle cose buone. Quei bambini moriranno di fame alla canonica se il signor Meredith non si trova una moglie, disse indignata la signorina Cornelia a suo marito, dopo che una se n'era andata. Ma non sembra intenzionato e non c'è niente che possiamo fare. Marshall, secondo te dovremmo prendere questa ragazzina, Mary? Sì, prendila, rispose lui laconico. Ah, tipico degli uomini, disse la moglie indignata. Prendila, come se bastasse questo. Ci sono almeno un centinaio di cose a cui pensare, credi a me. Beh, e intanto prendila. Al resto penseremo dopo, Cornelia, ribatté il marito. Alla fine la signorina Cornelia, o signor Elliot, lo fece e per prima cosa andò ad annunciare la sua decisione a Ingleside. Oh, splendido! Disse Anna felice. Speravo proprio che lo facesse, signorina Cornelia. Desideravo una casa accogliente per quella bambina. Sono stata un'orfana senza tetto come lei una volta. Non credo che quella Mary sia o possa mai diventare come te, rispose cupamente la signorina Cornelia. È tutto un altro genere, ma è pur sempre un essere umano, con un'anima immortale che deve essere salvata. Mi sono procurata una versione ridotta del catechismo e un pettine a denti finti e ho intenzione di fare il mio dovere con lei, ora che ho preso questa decisione. Credete a me. Mary accolse la notizia con umile soddisfazione. Oh, sono più fortunata di quanto mi aspettassi, disse. Dovrai comportarti come si deve dalla signora Elliot, disse Nan. Beh, posso farlo, replicò Mary. Se lo voglio, so comportarmi bene quanto te, Nan Blythe. E non dovrai usare brutte parole, Mary, si premurò di aggiungere una. Immagino che lei morirebbe inorridita se lo facessi, disse Mary sogghignando con una scintilla di perfidia ad accenderle gli occhi chiari. Ma non devi preoccuparti, una, diventerò una vera boccuccia di rosa, tutta smancerie e complimenti. E non devi nemmeno dire le bugie, aggiunse Faith. Nemmeno per non farmi picchiare, chiese Mary. La signora Elliot non ti picchierebbe mai, mai, esclamò Dee. Ah no? Disse Mary con aria scettica. Se mai dovessi ritrovarmi in un posto dove nessuno mi picchia, penserei di essere in paradiso. Se le cose stanno così, non dovete temere che dica bugie. Non mi piace molto dirle, comunque preferisco non farlo. Il giorno prima della partenza di Mary dalla canonica fu organizzato un picnic in suo onore nella valle dell'Arcobaleno e i bambini della canonica le regalarono ciascuno qualcosa della loro magra riserva di tesori segreti da tenere come ricordo. Carla le diede la sua arca di Noè e Jerry il suo secondo miglior scacciapensieri. Faith le regalò una piccola spazzola con uno specchietto nella parte posteriore che Mary aveva sempre trovato meravigliosa, mentre una esitò a lungo tra una vecchia borsetta decorata di perline e un bel disegno di Daniele nella fossa dei leoni. Infine lasciò la scelta a Mary, che in cuor suo propendeva per la borsetta, ma sapeva quanto una l'adorasse, perciò disse: Dammi Daniele, lo preferisco, ho un debole per i leoni. Però mi sarebbe piaciuto di più se lo fossero mangiato. La storia sarebbe stata più avvincente. Quella sera Mary convinse una a dormire con lei. È la mia ultima notte, disse. E fuori piove. Detesto dormire lassù da sola quando piove per via del cimitero. Nelle notti di bel tempo non mi importa, ma in quelle così si vede soltanto la pioggia che scroscia sulle lapidi bianche e il rumore del vento che soffia sulle finestre sembra quello dei morti che cercano di uscire dalle tombe e si lamentano perché non ci riescono. A me piacciono le notti piovose, disse una, mentre stavano rannicchiate una accanto all'altra nella stanzetta della soffitta. E piacciono anche alle ragazze Blythe. A me non disturbano quando sono lontana dai cimiteri, disse Mary. Se fossi qui da sola mi metterei a piangere. Mi sento terribilmente in colpa perché vi sto abbandonando. Ma la signora Elliot ti lascerà venire a giocare nella valle dell'arcobaleno, ne sono sicura, disse una. E tu ti comporterai bene, vero Mary? Oh, ci proverò, sospirò lei. Ma per me essere buona, dentro e fuori, intendo, non sarà facile come per voi. Voi non venite da una famiglia di furfanti come la mia. Ma nella tua famiglia devono aver avuto anche delle buone qualità, oltre a quelle cattive, ribatté una. E a quelle che devi pensare, e lasciar perdere le altre. Non credo che ne avessero, disse Mary in tono cupo. O almeno io non ne ho mai sentito parlare. Mio nonno era ricco, ma dicono tutti che era un mascalzone. No, dovrò partire da quel che ho e fare del mio meglio. Oh, la provvidenza ti aiuterà, Mary, se glielo chiedi, sai? Non ne sono così sicura. Oh, Mary, sai benissimo che abbiamo chiesto alla provvidenza di trovarti una casa. E lei lo ha fatto. Non vedo cosa c'entri, replicò Mary. Sei stata tu che hai messo in testa l'idea alla signora Elliot. Sì, ma chi l'ha messa nel mio cuore, la volontà di prenderti? Se non fossi stata ispirata, mettere in testa l'idea alla signora Elliot non sarebbe servito a niente. Potrebbe esserci qualcosa di vero in questo, ammise Mary. Comunque non ho niente in contrario contro Dio, una. Sono disposta a concedergli una possibilità, ma a dirla tutta, credo che assomigli un sacco a tuo padre. Deve essere anche lui un tipo distratto, uno che neanche si accorge della gente per la maggior parte del tempo, e poi ogni tanto si sveglia all'improvviso ed è meravigliosamente buono e gentile e saggio. Oh, Mary, no! Esclamò una inorridita. Dio non assomiglia per niente a papà, è mille volte più buono e gentile. Se è buono come tuo padre, per me è sufficiente, disse Mary. Quando mi ha parlato ho provato una strana sensazione, come se non potessi mai più fare nulla di male. Mi piacerebbe se parlassi con mio padre di Dio, sospirò una. Lui saprebbe spiegartelo molto meglio di me. Oh, beh, lo farò la prossima volta che si sveglia, promise Mary. Quella sera nel suo studio mi ha spiegato molto chiaramente che non sono state le mie preghiere a uccidere la signora Wiley. Da allora mi sono tranquillizzata, ma ci vado ancora piano con la preghiera. Non avventurarsi in territorio sconosciuto è sempre la scelta più sicura. Senti, una, in realtà mi sembra che se proprio uno deve pregare, sia meglio pregare il diavolo invece di Dio. Dio è buono. O almeno così dici tu, perciò non ti farà del male, mentre da quello che ho capito il diavolo ha bisogno di essere placato. Mi pare più sensato rivolgersi a lui e dirgli: caro diavolo, per favore, non tentarmi e lasciami in pace. Non credi? Oh no, Mary, no, sono sicura che pregare il diavolo non va bene. E comunque non servirebbe a niente perché lui è cattivo. Anzi, potrebbe farlo arrabbiare. E allora sarebbe anche peggio del solito. Beh. Riguardo questa faccenda di Dio, riprese Mary testarda, direi che visto che non riusciamo a chiarirla, non serve a niente continuare a parlarne. Almeno finché non ne saremo venuti a capo. Fino ad allora cercherò di fare del mio meglio da sola. Se la mamma fosse viva potrebbe dirci tutto, disse una con un sospiro. Vorrei tanto che lo fosse, disse Mary. Proprio non so cosa ne sarà di voi ragazzini quando me ne sarò andata. Magari provate a tenere la casa un po' più in ordine. La gente ne parla scandalizzata e prima che ve ne rendiate conto vostro padre si risposerà. Allora sì che ne vedrete delle belle. Una rimase sbalordita. L'idea che suo padre potesse risposarsi non le era mai passata per la testa prima. Non le piacque e si chiuse in un gelido silenzio. Le matrigne sono creature odiose, proseguì Mary. Se ti raccontassi tutto quello che so di loro, ti farei gelare il sangue. I ragazzi Wilson che vivevano di fronte ai Wiley ne avevano una. Era cattivissima con loro, tanto quanto la signora Wiley con me. Sarebbe terribile se vi ritrovaste con una matrigna. Oh, di sicuro non succederà mai, disse una con voce tremante. Papà non si risposerà con nessun'altra. E immagino che alla fine dovrà cedere, disse Mary tetra. Tutte le vecchie zitelle dei dintorni gli danno già la caccia. Non può resistere a lungo. La cosa peggiore delle matrigne, comunque, è che ti mettono contro il tuo stesso padre. A lui non importerà più niente di voi. Starà sempre dalla parte di lei e dei suoi figli, vedrai. Lei gli farà credere che siete tutti cattivi. Oh, vorrei che non mi avessi raccontato queste cose, Mary, esclamò una. Mi fanno sentire così triste. Volevo solo avvisarti, disse Mary abbastanza pentita. In realtà tuo padre ha la testa così per aria che potrebbe non venirgli mai in mente di risposarsi, ma nel caso è meglio essere preparati. Una rimase sveglia a lungo dopo che Mary si era addormentata, con gli occhi lucidi di lacrime. Che idea terribile! Suo padre sposava una donna che lo convinceva a odiare lei, Jerry, Faith e Carl. Non poteva sopportarlo, non poteva. Mary non aveva certo avvelenato la mente dei bambini della canonica, come aveva inizialmente temuto la signorina Cornelia, ma aveva senz'altro combinato un guaio, seppur con le migliori intenzioni, e ora dormiva un sonno senza sogni, mentre una era ancora sveglia. La pioggia scrosciava e il vento ululava tutto intorno alla vecchia canonica di pietra grigia. Quella notte il reverendo John Meredith dimenticò di andare a dormire, rapito dalla lettura di una biografia di Sant'Agostino. Era ormai l'alba quando finì il libro e si incamminò su per le scale, rimuginando su problemi risalenti a circa 2 millenni prima. La porta della stanza delle ragazze era aperta e lui vide Faith addormentata, il volto roseo e bellissimo. Si chiese dove fosse una. Forse era rimasta a dormire a casa delle ragazze Blythe. Ogni tanto lo faceva. E per lei era sempre un'occasione speciale. John Meredith sospirò. Avrebbe dovuto sapere dove si trovava sua figlia. Cecilia se ne sarebbe presa cura molto meglio. Se solo fosse rimasta con lui. Era così graziosa e allegra. La vecchia canonica di Maywater riecheggiava ogni giorno del suo canto. E invece se n'era andata all'improvviso, portandosi via risate e musica, e lasciando al loro posto il silenzio. Era accaduto tutto così in fretta che lui ancora non si era ripreso dallo stupore. Com'era possibile che fosse morta lei, che era così bella e vivace? John Meredith non aveva mai considerato seriamente l'idea di risposarsi. Aveva amato così tanto sua moglie che credeva di non essere più in grado di voler bene a un'altra donna. Si rendeva inoltre vagamente conto che presto Faith sarebbe stata in grado di prendere il posto di sua madre in casa. Fino ad allora, però, doveva fare il meglio che poteva da solo. Sospirò e andò in camera sua, dove il letto era ancora disfatto. La zia Marta se n'era dimenticata e Mary non aveva osato toccarlo perché lei gli aveva proibito di avvicinarsi a qualsiasi cosa nella stanza del pastore. Il signor Meredith, tuttavia, neanche se ne accorse. I suoi pensieri erano tornati su Sant'Agostino.